Il dramma dell'Algeria trova la sua origine più recente nel maggio del 58. I francesi insorsero contro il governo Flemelin. Si invocò al potere il generale De Gaulle, che chiese carta bianca. Il 5 luglio 1962 viene proclamata la Repubblica Democratica e Popolare d'Algeria, a seguito della schiacciante vittoria al referendum sull'indipendenza voluto dal presidente della Repubblica francese Charles de Gaulle. Si concludeva Les Événements d'Algérie. Dietro quel risultato ci sono però 8 anni di violenze, almeno 1 milione di morti, bombe in Francia e in Algeria, campi di concentramento, torture e omicidi politici. Questo è il devastante bilancio dell'ultimo capitolo della storia coloniale francese. In occasione dei 60 anni da quel 5 luglio 1962, Vallun, la mezz'ora di storia di e con Radio Città Fujiko, vi propone uno speciale di 4 puntate sulle storie e le memorie della guerra d'Algeria. La guerra d'Algeria non è un argomento con cui in Italia si ha una gran confidenza, anche se dovrebbe essere la nostra stessa storia fatta di incontri, solidarietà e legami fra la Repubblica Italiana, attiviste e attiviste di tutta Italia e il Fronte di Liberazione Nazionale Algerino a farci capire l'importanza di quel passaggio anche nella storia del nostro paese. C'è però un film realizzato in italiano, Gillo Pontecorvo, che rimanda immediatamente a quella storia e che ci fa capire la profondità di questo legame. Un film che è diventato, all'interno nella cultura di massa, uno degli emblemi di quel conflitto e del racconto della storia della lotta contro il colonialismo. Stiamo parlando ovviamente della Battaglia d'Algeri, il film del 1966, che è diventato una grande testimonianza nella denuncia contro la tortura, contro l'imperialismo e contro il colonialismo. Dobbiamo compiere le indagini necessarie per percorrere l'intera piramide da un vertice all'altro. La base di questo lavoro è l'informazione. Il metodo è l'interrogatorio. E l'interrogatorio diventa metodo se condotto in modo da ottenere sempre una risposta. Nella situazione attuale, dimostrare una falsa umanità non porta che al ridicolo e all'impotenza. Io sono certo che tutte le parti comprenderanno e reagiranno conseguentemente. Ma purtroppo non dipende solo da noi. Noi abbiamo bisogno di avere la casba a disposizione. Dovremmo setacciarla e interrogarla tutta quanta. Ed ecco che ci troviamo di fronte all'intrigo di leggi e di regolamenti che continuano ad essere operanti come se Algeri fosse un luogo di villeggiatura e non di battaglia. Noi abbiamo chiesto carta bianca, ma è difficile poterla ottenere. Bisogna allora trovare l'occasione che legittimi il nostro intervento e lo renda possibile. Bisogna crearla noi stessi, questa occasione. A meno che non siano i nostri avversari a pensarci. Cosa che sembra stiano facendo. Il cinema, soprattutto nel Novecento, è stato un grande canale con cui veniva raccontata la società e con cui venivano raccontati i suoi cambiamenti. E così lo è stato anche per la guerra d'Algeria. Per questo ci siamo rivolti ad un esperto, lo storico Luca Peretti dell'Università di Warwick e membro della redazione di Zapruder. Allora, nel corso delle tue ricerche stai lavorando su tante produzioni con cui è stata raccontata la guerra d'Algeria, ma ti chiederei di partire da quello che è il film più famoso, ovviamente La Battaglia d'Algeri, anche per confrontarci subito con un ospite ingombrante, diciamo. Ci puoi parlare di questo film e dell'impatto che ha avuto il lavoro di Gillo Pontecorvo sul racconto e sulla memoria della guerra? Assolutamente, il film di Gillo Pontecorvo esce nel 1966 e viene prodotto nei 2 anni precedenti, ma sfrutta una serie di rapporti, di interazioni che si vanno sviluppando tra Italia e Algeria in quegli anni. La causa algerina in Italia ha un'eco molto vasta già a partire dalla seconda metà degli anni 50. Il film diventa molto rapidamente, anche grazie al successo di pubblico e alla vittoria a Venezia, dove, come è noto, viene osteggiato dai critici francesi, anche quelli di sinistra, o la maggior parte di quelli di sinistra, diventa immediatamente una sorta di manifesto anticoloniale, trascende molto la battaglia di Algeri in sé e in generale il processo per la lotta per l'indipendenza algerina. Mette in un certo senso al centro delle dinamiche appunto geopolitiche internazionali questa lotta, che lo è già perché è una lotta importante, è la più sanguinosa, più duratura e più importante lotta diciamo anticoloniale di quell'epoca, ma la battaglia di Algeria, io credo, e anche insomma altri anche storici più tradizionali, diciamo non storici del cinema come me, sostengono che la battaglia di Algeri, il film, ebbe un ruolo fondamentale nel far conoscere questa storia e questa vicenda, e nell'ispirare poi nel corso degli anni altre lotte. Come è noto, insomma, la battaglia di Algeri, il film, viene fatto vedere da organizzazioni che lottano per la libertà, che lottano contro situazioni coloniali e non, tra cui le Pantere Nere, viene fatto vedere in Palestina, e addirittura arriverà invece a inizio anni 2000 a essere fatto vedere dal Pentagono per far capire come, appunto, come non perdere una guerra al tempo della guerra in Iraq. C'è un caffè moro a Rue Randon 40. Il padrone si chiama Medjebri, è un confidente della polizia. Ogni giorno alle 5 un poliziotto francese lo va a trovare e si ferma un momento con lui e prende informazioni con la scusa di bersi una tazza di tè. Deve ammazzare il poliziotto. No, Medjebri. No, c'è scritto poliziotto. D'accordo. Dunque, all'angolo, proprio in faccia al grande orologio, ci sarà una ragazza con una cesta. Quando il poliziotto esce, lo seguirete insieme. Al momento opportuno, lei ti darà una pistola. Tu dovrai solo sparare, subito e alle spalle. Facciamo a questo punto un passo indietro ed entriamo nel cantiere della tua ricerca. E quando, al di là della battaglia d'Algeri, quando e in che modo entra la guerra d'Algeria nel cinema di quegli anni? Ma guarda, come capita ad altre lotte dell'epoca, il cinema è un elemento fondamentale delle lotte stesse, nel senso che già il governo provvisorio algerino e il Fronte Nazionale di Liberazione all'epoca usano il cinema. Ci sono diverse decine di cortometraggi che vengono fatti mentre si combatte, diciamo, contro l'esercito francese e poi contro l'OAS, l'organizzazione dei terroristi francesi. C'è un regista molto importante, un regista francese che si chiama René Vautier, che sta con gli algerini all'epoca, che aiuta a creare l'unità diciamo del film dell'esercito che combatte in Algeria. Ma ci sono anche altri registi come Mohamed Lakhdar Aminah, ancora vivo, che all'epoca era molto giovane e che si spende molto e che farà poi alcuni dei film più importanti sulla guerra in Algeria, incluso il film che vince nel 1975 il Leone d'Oro, film algerino, cronaca degli anni di Brace. Ma ci sono dei rapporti con l'Italia molto intensi all'epoca, di questo mi sto occupando un po' di più, perché molti di questi film, siamo tra fine anni 50 e inizio anni 60, nel corso della guerra e appena dopo, quindi nel corso degli anni 60, vengono poi sviluppati nei laboratori in Italia, in particolare a Roma, nei laboratori della DEFA, che era la casa di produzione della Germania, casa di produzione statale della Germania Est, e a Belgrado, all'epoca appunto parte della Jugoslavia. C'è quindi un network, diciamo, di internazionalismo filmico, diciamo così, per cui appunto c'è uno scambio costante di uomini e di mezzi. Ci sono registi italiani di cui sto cercando di ricostruire le biografie, che vanno appunto in Algeria tra fine anni 50 e inizio anni 60, e il cinema in un certo senso fa la lotta l'indipendenza in Algeria. Questo è importante da capire, perché la battaglia di Algeria, anche se è diretta da un regista italiano e prodotto in coproduzione tra Italia e Algeria, si porta dietro queste esperienze, no? La Casbah Film, la casa di produzione algerina che produce il film, è diretta da Yasser Saidi, che è anche attore nel film e che era uno dei comandanti durante l'evento storico della battaglia di Algeria, che si nutre di queste interazioni e di questi scambi che già appunto sono presenti all'epoca. Non arriva dal nulla, ecco, per per un po' di tempo si è pensato che fosse un po' un caso che questo film esistesse. In realtà prima c'è molto altro, c'è già un cinema algerino che comincia nel certo senso, se non un cinema dei tentativi, ecco, che cominciano a ribollere. Mamma ha ragione. Se sei un bandito, nessuno ti rispetta. Un bandito? Quale bandito? Io un bandito? Senti, in questo paese o hai i soldi o non vali niente. Bandito. Io sono libero. Solo quando lo sarà il nostro paese. Dobbiamo diventare degli uomini liberi. Tutto deve cambiare. Tutto deve cambiare? E perché? Vuoi cambiare le cose con quegli operai? Ascolta, oggi siamo in tre. Domani raduneremo tutta la bidonville. La nostra causa è giusta. Ha ragione. Guarda i vietnamiti come hanno vinto. Eravamo molto meglio armati di loro, ma non è servito a niente. Avrebbero vinto prima o poi. Potevamo anche restare qui 15-20 anni. Avrebbero vinto. La rivoluzione è iniziata, fratelli. Niente la fermerà. Sentite, ho riflettuto bene. So come si può fare una montagna di soldi qui, facili e sicuri. Ve lo spiego. Tu, Mesoud, hai fatto l'Indocina, conosci le armi. E tu, Abdelkader, sei stato in prigione, sei uno tosto. A noi tre nessuno ci potrà fare paura. Per quanto volete vivere in questa miseria? Tutta la vostra vita? Faremo noi la legge, ve lo giuro. Devi scegliere, Said. Da che parte stai? Con i tuoi fratelli o con loro nemico? I fratelli? Voi siete fratelli, gli altri non li conosco. Quanto ai nemici ci penso io, tranquillo. Un'ultima domanda più specifica sugli anni più recenti, diciamo. Molti dei film dedicati alla memoria dell'Algeria in Italia non arrivano, ma una bella eccezione è costituita da Uomini senza legge, un film del regista Rachid Boukareb del 2010. Boukareb è un regista che ha dedicato diversi dei suoi lavori alla memoria della Francia coloniale, diciamo. Un altro esempio è Days of Glory del 2006. Il film Uomini senza legge è interessante perché è un po' particolare, perché questa è la nostra impressione, poi chiediamo a Luca Peretti cosa ne pensa. L'impressione è quella che sia costruito un po' con la modalità di un gangster movie, un film un po' all'americana nel senso deteriore del termine. Qual è, secondo te, Luca, la scelta che ha fatto questo regista e in che maniera ha raccontato la guerra d'Algeria? Sì, anche qui ti aggiungo, faccio diciamo un po' lo storico noioso, che le modalità di genere sono delle modalità che anche il cinema algerino ha utilizzato. Alcuni dei film appunto sulla guerra sono dei film epici a carattere appunto hollywoodiano, quasi in parte anche che prendono degli stilemi del western, questo anche negli anni 70. In questo caso la fortuna di questo film e in parte anche di quello prima di Ain Dijen è lavorare proprio su un immaginario che il pubblico, anche il pubblico francese, ha già visto, già conosce, grazie appunto a gangster movie e ad altri film. E nel caso di Uomini senza legge di portarlo in un certo senso nella Francia metropolitana, no? Perché è in parte ambientato anche nella Francia metropolitana. Rimane però, come dicevi anche tu, un'eccezione, nel senso che non si parla ancora abbastanza. Ci sono molti film anche in Francia, questa è un'altra, diciamo, degli stereotipi che vanno un po' combattuti. Non è vero che il cinema francese non si occupa della guerra di Algeria, che se ne occupa un po' in maniera, cioè va un po' ricostruito, bisogna vedere la storia del cinema francese un po' in controluce per trovare riferimenti e compagnia. Questo vale ad esempio anche per la storia del colonialismo in Italia, di cui si parla poco al cinema, ma bisogna ricostruire e vedere i film, alcuni film in un altro modo. Ecco, la fortuna di Uomini senza legge è in modo molto diverso di Ain Dijen, che non parla di Days of Glory, o Ain Dijen che non parla direttamente della guerra, ma parla comunque della questione algerina in maniera un po' più in senso lato, e essere riusciti a fare un film che possa arrivare al grande pubblico. che è stata poi la stessa fortuna della Battaglia di Algeri. Anche la Battaglia di Algeri è un film epico, è un film che in un certo senso semplifica per arrivare alle grandi masse. Questo è uno dei primissimi film a farlo ed è probabilmente l'unico film a farlo negli anni 2000. Come sai, come credo che parlerete in altri incontri, siamo ancora all'interno di un percorso di ripensamento appunto di cosa è stata la guerra d'Algeria per la Francia ed in Francia e in parte anche in Algeria stessa, e quindi credo che è auspicabile che altri film verranno su questi temi. Là-bas en Algérie è lo speciale estivo di Walloon a 60 anni dalla guerra in Algeria. Walloon è il programma di storia di Radio Città Fujiko, curato da Debs, Alessia, Olga, Frey e Lara. Potete trovarci su Facebook, Twitter e sul nostro sito walloon.info.